Allora, abbiamo sentito che lei e il suo collega Baccini dell'UDC avete deciso di abbandonare il vostro partito in polemica con Casini. Perché questa decisione? Intanto non è che è una questione polemica, io non polemizzo mai con nessuno, registro che la posizione assunta da Casini in contrasto con diciamo, gli orientamenti degli ultimi mesi, credo che ognuno ricorderà diciamo, lo smarcamento che l'UDC aveva operato rispetto alla Casa delle Libertà con motivazioni forti, soprattutto la critica a questo bipolarismo, che è quello che ha portato l'Italia nelle condizioni attuali, due opposti schieramenti organizzati secondo lo schema delle tifoserie, capaci di prevalere uno sull'altro, ma poi incapaci di governare. Ecco. Quindi andrete al centro? Certamente, quindi vogliamo offrire, come mi è capitato di dire in queste ore, una rosa. Quindi un fiore ai cittadini italiani perché concorrono ad abbattere questo assetto bipolare. Io poi, tra l'altro, la mia alternativa era quella di ritornare nel privato, quindi non è che ho un problema di Però, rincorsa Tabacci, mi iscritti scusi. parlamentari in quanto tale. Allora, in Prego. un momento in cui si discute di nuova legge elettorale, perché non ci siano tanti piccoli partiti, perché ci siano dei governi più solidi, lei lancia un po' l'idea di questa rosa bianca, quindi di un nuovo movimento. Come si concilia questa Guardi, idea? questo nuovo movimento è chiaramente orientato ad abbattere questo schema bipolare, strumentale, perché Berlusconi metterà sulla sua scheda 17 sigle, lei lo sa questo, 17, E quindi a 18. questo punto lei Questi dice. sono i partitini, scusi, io non ho nessuna aspirazione di fare il partitino, io dico se gli italiani vogliono abbattere questo assetto bipolare, devono concentrarsi al centro, la legge lo consente, come lei ben sa, e questo evidentemente dimostra anche il grado di reattività che l'elettorato italiano può avere nei confronti di questo assetto politico. Se invece gli va bene questo assetto politico, che se lo tenga, io non è che ho problemi particolari. Senta, ma la rosa bianca come si pone con la cosa bianca di Pezzotta, ad È la esempio? stessa cosa. Quindi andrete insieme? Ma è la stessa cosa, nel senso che la cosa bianca è un. Era una, diciamo una. Ma mi sta dicendo che si avvicinerà in qualche modo a Pezzotta e quindi l'idea è la No, stessa? abbiamo lavorato insieme, quindi non capisco perché, a parte che la cosa bianca fu lanciata da me, e quindi su questo punto Pezzotta ha sempre detto che non gli piaceva l'addizione, quindi non vedo perché lei attribuisca adesso a Pezzotta di aver fatto la cosa bianca, quando è un lancio. Diciamo anche di immagine che avevo costruito Al di io là la del lancio settimana di scorsa. immagine, diventerà qualcosa di concreto? Beh, presumo di sì, in relazione alle adesioni che ci saranno, cioè è chiaro che se c'è gente che si riconosce in questo meccanismo, soprattutto della società, non è che dobbiamo tanto. Se si dovesse andare a votare, troveremo sulle schede anche una rosa Mi bianca. auguro proprio che troviamo in mezzo ai due schieramenti che esporranno E quali nomi decine di troveremo nella simboli. lista? Vabbè, questo, vediamo, le ho detto prima. Beh, io ho detto che insieme a Baccini siamo pronti a correre questa avventura. Poi non c'è nessuna preclusione, non è che questo è un partito chiuso ed è un partito padronale. Io di padronale non ho niente. Siete già pronti? Beh, non è una cosa poi così difficile, nel senso che. Sia per quel che riguarda la raccolta delle firme, delle adesioni, cioè comunque se guardo l'impatto che ho avuto sul mio sito, sul mio blog, non lo so, mi sembra che ci sia un interesse formidabile. Solo stamattina ci sono stati 1.000 ingressi sul sito, quindi Correrete da soli, anche voi come il Partito Democratico. correremo da soli, sì, in alternativa ai due poli. Ritornando al discorso di Casini, lei ha detto non ci sono polemiche con Casini, non è stata fatta in vena polemica. Casini, rispetto all'iniziativa sua e di Baccini, ha detto vabbè, è una cosa inutile, non mi interessa, è inutile discuterne. Anche di fronte a queste parole, quindi rimane il suo atteggiamento di fair play? Ma decideranno gli italiani se è inutile, non è che la decide lui. Io ho trovato del tutto invece impropria la posizione che lui ha tenuto in queste ultime ore. È andato dal capo dello Stato dicendo che c'era una disponibilità a a concorrere ad una soluzione utile per una nuova legge elettorale. Dopodiché ha aggiunto che però doveva essere d'accordo anche Berlusconi, che voleva dire che l'ultima parola spettava Berlusconi. Delle due l'una, se era già d'accordo con Berlusconi non era neanche il caso di far finta di fare un appello. Ora il capo dello Stato ha dato un incarico e quindi Marini misurerà la disponibilità. Nel passato lui ha sempre detto che per una soluzione elettorale alla tedesca era pronto a fare qualsiasi cosa. Evidentemente ha cambiato opinione.